dicevi, di 19 miliardi aggiuntivi che saranno necessari per salvare forse Bankia, ma forse non saranno sufficienti. Già gli analisti di mercato dicono che non basteranno, che il buco nei conti di questa fusione tra 7 casse di risparmio locali, che ha dato vita a questo specie di mostro con questo buco, e potrebbe essere l'esposizione quindi sull'immobiliare, gli asset a rischio che ha in portafoglio potrebbero essere di valore superiore, quindi 19 miliardi pubblici non ancora sufficienti. Inoltre si è diffusa la voce di una possibile richiesta di aiuto da parte del governo Rajoy all'Unione Europea per un intervento diretto sulle banche attraverso i fondi di salvataggio europei, una voce che poi è stata smentita in una conferenza del tutto inusuale dallo stesso Premier conservatore, ma come si sa i mercati in questi casi reagiscono alla prima delle notizie e poi fanno fatica a fare marcia indietro. E il prezzo di banche è crollato clamorosamente oggi, dopo che è stato riammesso, è crollato del 30% e fino a raggiungere un minimo di 1,10 euro, ma già gli analisti da Nomura a JP Morgan a Deutsche Bank pensano che non siano cifre definitive, anzi stimano il prezzo per azione intorno a 0,20-0,30 centesimi contro l'1,10 di oggi.